Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Come di consueto alla fine dell'anno facciamo un po' i bilanci di quello che abbiamo fatto e magari ci sforziamo di fare i buoni propositi per l'anno nuovo. Beh, il cacciatore di libri non poteva fare altro che ricostruire un po', fare un bilancio del 2013 attraverso i libri che lo hanno caratterizzato. Beh, innanzitutto è stato un anno difficile sicuramente per l'editoria, lo diciamo ormai da un paio d'anni, perché mentre prima c'era sempre un segno più nel fatturato delle case editrici e anche un segno più nelle vendite dei libri, negli ultimi due anni praticamente ci siamo abituati a vedere il segno meno. Anzi, purtroppo negli ultimi due anni, quindi sommando sostanzialmente il 2012 e il 2013, almeno i dati che ci sono fino a ottobre, c'è stato un calo addirittura del 14% del fatturato. Quelli che sono andati bene invece sono i cosiddetti libri low cost, quelli, le offerte che fanno per esempio a 9,90 e così via. In quel senso sono libri che hanno tenuto e naturalmente questo è il segno della crisi. Anche i libri, i bestseller, i cosiddetti bestseller, sicuramente hanno venduto meno copie rispetto agli anni scorsi. E partiamo proprio dal libro che ha venduto di più, dal libro italiano che ha venduto di più nel nostro paese, che è stato 000 di Roberto Saviano. Ho parlato di libro italiano perché per quanto riguarda la classifica globale invece dei libri più venduti in Italia, i primi due sono Inferno di Dan Brown e poi E l'eco rispose di Khaled Hosseini. Parleremo anche di questi libri naturalmente in questa puntata speciale del Cacciatore di Libri, e comunque sono libri che si attestano sulle 800.000 copie nel giro appunto di alcuni mesi, nel giro del 2013. Insomma, gli anni scorsi vedevamo cifre ben diverse, si arrivava tranquillamente anche ai 2 milioni di copie, invece in questo caso non si arriva neanche a sfiorare 1 milione di copie. Ma torniamo a Roberto Saviano. Il suo 000 era sicuramente uno dei libri più attesi del 2013. Perché dico più attesi? Qualcuno ogni tanto mi critica quando appunto dico che un libro è atteso. Beh, i fan di Roberto Saviano sicuramente lo aspettavano, perché è uscito 7 anni dopo Gomorra, che è stato il suo primo libro e sicuramente il suo libro di più grande successo. E naturalmente lo aspettavano al varco anche i critici, perché quando uno scrittore vende tanto, quando uno scrittore diventa famoso, sicuramente suscita anche delle invidie in alcuni casi e in altri invece delle critiche assolutamente corrette, assolutamente giuste. Era un libro anche molto atteso, 000, perché Roberto Saviano ha cambiato editore, adesso ha pubblicato con Feltrinelli. È, come dicevamo, il libro che ha venduto di più in Italia, sia per quanto riguarda le librerie tradizionali, secondo i dati da GfK, sia per quanto riguarda Amazon, quindi una libreria online. Il libro racconta, lo ricordiamo in modo narrativo, il traffico di cocaina che proviene dal Messico e finisce poi negli Stati Uniti e in Europa. E Saviano racconta di questo traffico attraverso le storie singole, cioè di singoli criminali o di uomini di legge. Insomma, è sicuramente un saggio, ma narrato quasi come se fosse un romanzo. Ma perché aveva deciso di scrivere un libro sul traffico di cocaina? Sentiamo che cosa ci disse all'epoca Saviano. Perché è diventata per me un'ossessione, nella misura in cui attraverso la coca sono riuscito, o credo di esserci riuscito, a trovare un'elica del DNA dell'economia contemporanea, qualcosa che mostrasse il mondo letteralmente da un altro punto di vista, dove le periferie sono la parte più ricca dei territori, dove la ricchezza non crea sviluppo, ma crea semmai degli stipendi, degli indotti e dei milionari, ma mai sviluppo, per di più una sostanza che viene ormai percepita poco più che un aperitivo, che quindi è una sorta di additivo che va a sciogliere la stanchezza, l'inibizione, ma non viene percepita come un problema di droga, insomma, di dipendenza. A differenza di tutte le altre droghe, cocaina e devo dire anche l'hashish, sono le droghe regine, nella misura in cui ormai fanno parte del quotidiano e fatturano delle cifre gigantesche. Per intenderci, l'intero narcotraffico è la prima azienda al mondo, cioè supera le aziende del petrolio nei momenti di picco, e quando non è, diciamo, nel massimo grado di espansione, non scende mai al di sotto delle 10 aziende più importanti del pianeta. Infatti nel libro tu dici a un certo punto che la cocaina è un bene rifugio ed è anche anticiclica, nel senso che anche quando l'economia va male il mercato della coca va bene. Perché? Succede questo, almeno per quello che ho capito. Quando l'economia inizia ad andare male, le persone smettono di risparmiare, smettono di sognare una seconda casa, smettono di lavorare di più per investire per i figli, per esempio. E quel gruzzolo diventa godimento. Quindi diventa spesso coca, gioco, ristoranti, prostituzione. E il bene immediato, il qui e ora, il godimento immediato. E quindi una massa di denaro, che prima veniva un attimo contenuta per risparmio o altro, d'improvviso si trova a disposizione del mercato della coca e non solo, perché saltano delle logiche che prima tenevano a freno questo denaro. Non è mai successo nella storia dell'umanità, da quando esiste un profondo traffico, quindi diciamo paragonabile dalla prima guerra mondiale in poi, non è mai successo che la coca avesse una crisi. Se Saviano era lo scrittore italiano più atteso di questo 2013, fra gli stranieri è tornato l'americano Dan Brown con un romanzo che è uscito in contemporanea mondiale il 14 maggio. Anche in questo caso, insomma, vendite ottime, l'abbiamo visto insieme a Khaled Hosseini. Comunque niente a che vedere con l'esplosione che c'era stata con il Codice da Vinci. Questa volta Dan Brown, con Inferno, pubblicato in Italia sempre da Mondadori, ha raccontato la storia del suo personaggio seriale, il famoso professor Lanton, esperto di simbologia, e ha fatto in modo che lui si trovasse così, si svegliasse all'improvviso a Firenze, in una stanza di ospedale, ferito in uno stato confusionale. Insomma, qualcuno aveva cercato di ucciderlo e lui deve scoprire chi e perché. E per scoprirlo deve decifrare una serie di simboli presenti nella Divina Commedia di Dante. Allora, per presentare questa sua ultima fatica in Europa, Dan Brown aveva scelto proprio Firenze. Questo era accaduto a giugno appunto del 2013, dove appunto l'avevamo incontrato. E così ci parlava di Dante e della Divina Commedia nella traduzione di Paolo Noseda. For me the most interesting thing is the influence that Dante had on the Christian vision of hell. This idea that hell in the Bible was very ethereal, wasn't described very well, and it wasn't until Dante that we had an incredibly vivid version of hell that has survived 700 years. Beh, la cosa più interessante che io ho riscontrato è proprio il modo con cui Dante ha descritto l'inferno, la sua visione dell'inferno, che è una visione assolutamente più particolare rispetto alla visione che il cristianesimo ha dell'inferno, perché neppure nella Bibbia l'inferno è stato descritto così bene come lo ha scritto Dante. E credo che proprio la sua visione dell'inferno è quello che ha permesso a quest'opera di essere ancora attuale oggi, 700 anni dopo. In questo romanzo la divisione fra bene e male non è così netta. C'è quasi una giustificazione del cattivo. Perché? I find the gray area between right and wrong much more interesting than clear-cut delineation. I like a hero who does the wrong thing for the right reason. I like ethical dilemma. I like moral quandary. Complex is better than simple. Beh, io trovo che questa zona di grigio fra il bene e il male sia davvero la cosa più interessante. Non mi piace che le cose siano troppo chiare, troppo delineate, e mi piace per esempio descrivere un eroe che fa delle cose sbagliate ma per dei buoni motivi. Ecco, questo genere di cose mi piacciono, perché mi piace di più una situazione di dilemma, una situazione di dubbio che ti rode addirittura il cervello, e questo sì, penso sia importante e sia bello. Lei ha detto che le piacerebbe che Roberto Benigni interpretasse un ruolo se si dovesse fare un film tratto da Inferno. Che ruolo gli assegnerebbe? Oh, I would not presume to tell Mr. Benigni what role to play. He's a great actor. He could probably do anything he put his mind to. I will just have to wait and see. Anche Robert Lanton? I can't see him playing Mr. Langdon because he's an Italian. Mr. Langdon is an American, but I am an enormous fan of his work. And certainly of his work with Tutto Dante.

dovevi essere consapevole dei rischi che questo comportava, e quando i rischi si materializzavano c'erano due scelte: o scappavi o ti battevi. La mia opinione da uomo adulto è che ci voglia più coraggio e sicurezza di sé per scappare che non per rimanere, e infatti con ogni probabilità io non avevo abbastanza coraggio per scappare. Di molte situazioni di questo tipo per strada è fatta la mia adolescenza e, come posso dire, il mio percorso di crescita. Credo che sarei diverso, non so se migliore o peggiore, se queste cose non mi fossero capitate. A fare la storia del 2013 attraverso i libri pubblicati non possono mancare i vincitori dei grandi premi. A iniziare dal Nobel per la letteratura, assegnato a ottobre alla canadese Liz Munro. L'Accademia di Svezia l'ha definita maestra del racconto contemporaneo, perché appunto lei è specializzata nei racconti brevi. Naturalmente il Nobel non premia un solo libro, ma tutta l'opera di uno scrittore. La Munro, a 82, quasi 83 anni, aveva annunciato, tra l'altro, proprio quest'anno, a giugno, che non avrebbe più scritto, un po' come aveva fatto l'americano Philip Roth. La sua ultima opera, The Hard Life, uscirà per Einaudi nel 2014 con il titolo Uscirne Vivi. Quindi noi speriamo che non sia il suo ultimo libro, ma insomma lei così ha dichiarato. Tra l'altro, proprio quest'anno la Mondadori aveva dedicato ad Alice Munro un meridiano. Un meridiano è, diciamo, un volume prestigioso che raccoglie una serie di opere di un autore. Nel caso della Munro raccoglie una cinquantina dei suoi racconti più belli. Come dicevamo, lei è specializzata nei racconti, che è un genere un po' osteggiato sia dalla critica che dal pubblico, soprattutto in Italia, insomma i racconti non piacciono molto. E allora, visto che Liz Munro non è una scrittrice famosissima in Italia, non è così nota, abbiamo chiesto a Marisa Caramella, che è curatrice appunto della Meridiano Mondadori dedicato alla scrittrice canadese, ed è stata tra l'altro una delle prime in Italia a scoprire Liz Munro, di dirci, insomma, quei due o tre pregi della Munro, insomma, perché vale la pena leggerla. Sentiamola. È una domanda difficilissima, perché fior di critici ci si sono scontrati, molto più bravi di me, molto più famosi. Le cito uno di loro, che è Jonathan Franzen, che è un suo grande ammiratore. E sì, ne ha parlato molto bene, tra l'altro. Ne ha parlato molto bene. E che sostiene il valore del racconto, ovviamente, in questo articolo in cui parla di Munro. Però, arrivato a lei, la cosa migliore, dice, che posso dire a tutti voi è: leggete Munro, lo ripete due volte. Perché è davvero difficile individuare le ragioni per cui uno dovrebbe prenderla in mano e leggerla, no? Però non appena la si prende in mano, basta un racconto per capire dove si sta, che tipo di scrittura è, come ci avvince con delle storie che sono tutto sommato abbastanza comuni, soprattutto con dei personaggi comuni, dentro i quali però lei scava e a un punto immagina naturalmente, a un punto tale che diventano interessanti, e poi andando avanti e indietro nel tempo, saltando interi decenni, ci riserva sorprese sul destino dei medesimi personaggi. Quindi è come aspettare la risposta, non dico un giallo perché è un po' ridicolo, ma comunque una risposta finale a una storia che si costruisce piano piano, lentamente, ma sì, e poi a scatti, senza che si capisca bene dove si vuole arrivare. Lei sostiene di non sapere a sua volta dove vuole arrivare molto spesso. Venendo agli scrittori italiani, il premio più ambito è sicuramente Lo Strega. È stato assegnato i primi di luglio a Walter City per il romanzo Resistere non serve a niente, pubblicato da Rizzoli. Una vittoria così netta non si vedeva da anni. City si è aggiudicato Lo Strega incassando quasi il doppio dei voti del secondo classificato. Ma veniamo al suo romanzo. Protagonista è Tommaso, un ragazzo di Borgata che ha un'ossessione per il cibo e per il denaro. I suoi studi verranno finanziati dalla criminalità organizzata e finirà per diventare un mago della finanza, ossessionato dai soldi e dal potere. Anche in questo romanzo Walter City usa la terza persona per descrivere appunto le situazioni, come fa nella maggior parte dei suoi libri. Sentiamo perché. Alcune delle cose più profonde che mi riguardavano, per esempio il sadomasochismo in Autopsia dell'ossessione, sì, credo che si chiamasse così, e adesso questa attrazione forte per il denaro, io non sarei riuscito, credo, a scriverle parlando in prima persona di me.

2013, non solo a livello di vendite, perché ha venduto più di 80.000 copie, un risultato ovviamente di tutto rispetto, ma anche e soprattutto perché di Stoner si parla sempre più spesso anche sui social, sui blog, insomma sta diventando una sorta di libro culto. Che cosa si racconta in questo romanzo? Il protagonista è William Stoner, ha una vita che sembra essere piatta, normalissima, è docente all'università, è sposato, insomma sembra una vita normalissima, senza infamia e senza lode, diremmo. Eppure lo scrittore John Williams fa della vita di Stoner una storia veramente appassionante. E appassionati a questo romanzo sono anche dei lettori illustri, come per esempio Michele, della coppia Gino e Michele, scrittore, autori televisivi e teatrali. E allora gli abbiamo chiesto che cosa ci ha trovato in questo romanzo. Ho trovato la normalità, che ormai dirlo adesso è una cosa più che scontata, nel senso che l'hanno un po' scritto e detto in molti. Devo dire che quando mi è stato consigliato questo libro, dicendomi guarda che è una cosa molto particolare, dicendo è una storia normale, mi ha incuriosito tantissimo. Però l'ho letto, sai, così come si leggono le cose che ti regalano, più che altro per all'inizio, se non ne sai niente, per far sì che se ti chiedono poi almeno fai vedere che l'hai letto, no? In realtà dopo le prime 5 pagine ero già impazzito per la semplicità con cui veniva raccontato un micromondo che in realtà è l'universo. La grandezza degli scrittori spesso si vede appunto da come riescono a raccontare anche il nulla e a far appassionare il lettore. Tu quindi questo libro lo consiglieresti e a chi lo consiglieresti? Beh, lo consiglio a chi ama la vita, perché è un libro tra l'altro straordinariamente senza epoca. Se ti dimentichi l'epoca in cui è stato scritto, potrebbe essere stato scritto ieri o un secolo fa. Dicevo che lo consiglio per chi ama la vita, per chi ama riconoscere le grandi storie nelle piccole storie, per chi pensa che la grande storia dell'umanità è fatta da miliardi di piccole storie e che chiunque passi per questa vita terrena c'è sempre un motivo per lasciare un segno e una scia nella storia dell'umanità, ognuno, anche la persona apparentemente più insignificante. Si chiude qui questa ricostruzione attraverso i libri di questo 2013. Abbiamo parlato dei libri più venduti: Dan Brown, Khaled Hosseini e poi Roberto Saviano, i libri che hanno vinto i premi come il Nobel ad Alice Munro, e poi gli scrittori di successo che hanno venduto soprattutto alla fine dell'anno, perché i romanzi sono usciti in questo periodo: Fabio Volo, Margaret Mazzini, Santini. L'appuntamento consueto con Andrea Camilleri. Abbiamo chiuso appunto con il caso Stoner. Ringrazio in regia Roberto Scaltritti e Fabio Cantadori. Vi ricordo che Il Cacciatore di Libri, versione diciamo normale non speciale, va come sempre in onda il sabato mattina alle 6.45 in versione breve e il sabato sera nella versione long version, diciamo così, dopo il GR delle 22. Una buona serata e una buona lettura da Alessandra Tedesco.